tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche lei. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Benvenuti ad una nuova puntata del notiziario ateo anticlericale. Sito del Circolo Giordano Bruno, giordanobrunomi.wordpress.com. Per le vostre mail, notiziariogiordanobruno@gmail.com. Calendario anticlericale 2021, info@sicilialibertaria.it. Iniziamo dai misfatti anticlericali. Aveva creato un'associazione con centinaia di giovani, questo prete maniaco di Enna. Prete ai domiciliari per abusi sessuali. Le vittime sarebbero 3, ma ci avrebbe provato con molti altri minorenni. Arrestato a oltre 1000 chilometri dalla sua parrocchia dove si era trasferito. Il suo vescovo, che era al corrente delle denunce, respinge le accuse di insabbiamento. In 7 hanno raccontato alla polizia il clima di continua ambiguità che si viveva stando a contatto con questo prete degenerato. Allora, altre notizie interessanti su misfatti. Pare che la fattura dei maceti usati dagli Hutu per sterminare gli Itzu nel lontano 1992 fossero stati fatturati dalla Caritas locale. Negli anni 80, una recente notizia che mi è stata data da compagni di Roma, in un istituto religioso scolastico di Roma di suore avvenivano scolacciamenti sulla cattedra a culetto nudo e poi si usava una bacchetta di 70 cm che veniva usata per colpire le manine delle alunne ad angolo e poi forti tiri delle orecchie dei preti e le suore. Cronaca, il Fatto Quotidiano del 21 maggio, Firenze. Imputati, rinviati a giudizio anche la sorella Matilde di Matteo Renzi. Reati fiscali, un altro processo per mamma e babbo Renzi. Coop, Consip e la Fondazione Open, una saga giudiziaria in tutta la famiglia di clericali degenerati. Abbiamo poi le mancette di Landella, il sindaco di Salvini nel verminaio di Foggia, dalla Repubblica del 22 maggio 2021. In manette il ras delle clientele, che diceva Matteo Salvini. La giunta nelle tue mani, indagata pure la moglie, ecco, e le complicità dei filocrocifissi. Dal Corriere della Sera del 23 maggio 2021, da pillon al Cardinal Burke, la marcia per la vita dei clerico-fascisti all'attacco della legge Zan. Passiamo poi, previo qualche slogan, viva Giordano Bruno, viva il libero pensiero, sia ad una scuola laica sia alla ora alternativa. Alle notizie anticlericali vere e proprie. Da Nessun Dogma, ultimo numero, di numero 3 2021, in Galles la materia educazione religiosa cambia nome e diventa religione, valori ed etica, includendo anche nozioni di umanismo, no all'ora di religione. Su Striscia la notizia del 23 maggio, il vescovo di Locri Gerace, incalzato da Canale 5, rimuove la targa di un noto mafioso dalla chiesa di un paesino lì della provincia. Canale 5, sempre Striscia notizia del 21 maggio, servizio sulle tariffe per i matrimoni in Sicilia, altro che ama il prossimo tuo, gratis, eccetera, eccetera. Allora, da umbrion.it, benedetta monaca lesbica. Fa scandalo il trailer del film girato fra Bevagna e Perugia. La pellicola di certo Paul Verhoeven è destinata a far discutere per i temi scabrosi le scene esplicite della monaca omosessuale. 7 maggio 2021, ecco, la lussuria del clero. Leggi radicate nell'inconscio di popoli remoti. Dal Manifesto del 16 maggio, pagina 4, si parla del potere femminile, della presenza delle sacerdotesse, di una cultura di tipo matriarcale in epoca quasi preistorica. E l'ipotesi è che le religioni monoteiste, cattolicesimo, islamismo e ebraismo, siano state inventate da astuti monaci maschi per far fuori le concorrenti sacerdotesse. 25 maggio 2021, su Leggo, pagina 6, Fedez. Caso primo maggio denunciato Fedez. Lui orgogliosissimo, rifarei tutto. Ricordiamo che ha fatto anche attacchi indiretti contro il Vaticano. Segnalo un nuovo libro su Galileo Galilei, discorsi e dimostrazioni di Galileo Galilei per il lettore moderno. Prefazione di Telmo Pievani. Postfazione di Ugo Amaldi. Autore Alessandro De Angelis. Ricordiamo Galilei fu processato dall'Inquisizione, minacciato di tortura, condannato al carcere a vita. Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze. Non è solo l'ultimo libro di Galilei, la summa del suo pensiero fisico-filosofico, sviluppato in oltre 50 anni di studi, compiuti a Pisa, Firenze e Padova. È uno dei capitoli più importanti della storia della scienza contro la Chiesa cattolica e il suo oscurantismo antiscientifico. Su Fatto Quotidiano del 24 maggio, Chiesa e clericali di destra. E qui sono chiamati clericali di destra, chiamiamoli pure clerico-fascisti. Da una parte, quindi, una minoranza clericale di destra omofoba e antimigranti. E ci sarebbe da essere pessimisti per il futuro della Chiesa, questo a noi va bene, e si parla contro la destra clericale in questo articolo a pagina 6. Abbiamo poi vittorie anticlericali in provincia di Bolzano. E data 7 maggio 2021. Religione. Dopo 335 anni chiude il monastero di Sabiona. Ok, ottima notizia. Sabiona è un'antica sede episcopale in Valle Isarco. I primi vescovi risiedettero sul monte, eccetera, eccetera. Dopo 335 anni le suore se ne vanno a comunicarlo al vescovo, eccetera, eccetera, per carenza di vocazioni. Molto bene. Anche a Saronno, in provincia di Varese, buone notizie, nell'ex seminario si fa la sede della protezione civile. Ormai i preti sono estinti. Buone notizie anche dall'Umbria, su Giallo, il settimanale, 27 maggio. Il parroco e il suo vice si innamorano, una chiesa in Umbria rimane senza preti e speriamo che tutte le chiese rimangano senza preti. Fulmine anticlericale in India. Da dajiworld.com dell'8 maggio 2021. A Mangalore, un grosso disastro provocato da un fulmine anticlericale, guglia con crocifisso decapitata, tetto sfondato, detriti edili dappertutto, un disastro totale. Altra disgrazia è segnalata su Corriere delle Alpi più gelocal.it e si ricorda un fatto storico, data 25 aprile 2021, si ricorda l'annegamento di questo disgraziato frate, no? Che finì miseramente annegato per la mancanza di un ponte che attraversava questo fiume della provincia di Belluno. Ricordiamo una terribile tragedia appena avvenuta a Roma nella galleria Giovanni XXIII. Ecco, intitolano in Italia tutte le robe ai preti, ai frati, ai santi per invocare protezione, ma i morti non possono fare niente per noi, né pro né contro, e quindi l'intitolazione di questa galleria al Papa, al Santo Papa, non è servita a niente, c'è stato il solito incidente mortale. Abbiamo poi da aleteia.org, sacerdote muore annegato dopo aver salvato due vite. In realtà questo qui, invece di pregare in chiesa, andava in giro in barca con una donna ed è annegato miseramente. Abbiamo poi i castrati di Dio, gli evirati cantori, Puttini Castratelli, uno dei più grandi misfatti della storia della Chiesa. E ricordiamo questo povero disgraziato che si chiamava Lorenzo Vettori, che fu castrato da piccolo a Spoleto in Umbria nel 1588. Fu in pratica venduto a questi preti maniaci che castravano i bambini per farne degli evirati cantori, e e poi non lo videro più. Il fanciullo divenne così allievo di questo prete maniaco di nome Don Francesco Soto, che lo fece diventare cantore della Cappella Pontificia. Dal mio libro Piccolo dizionario ateo anticlericale siamo arrivati alla F. Fantasiose ricostruzioni sono quelle relative a particolari evangelici inventati, per esempio la finta detenzione di San Pietro a Roma negli Atti degli Apostoli, da Emilio Salsi, Giovanni il Nazireo detto Gesù Cristo ai suoi fratelli. Farneticazione lirico-retorica traspare per esempio negli scritti di Bonaventura da Bagnoregio, quindi in ordine alfabetico tutta la terminologia atea anticlericale. E passiamo al mio argomento preferito, gli antipapi. Gli antipapi sono 41 e siamo arrivati al 692 d.C., ovviamente, con l'antipapa Pasquale I, che era un ricco prete corrotto, proprio un prete degenerato fino al midollo, comprava di tutto, era ricco sfondato, fu relegato in un convento dove morì, forse avvelenato. Cercò di comprare il papato, ma pare che non ci riuscì. Detti anticlericali, per concludere, Giordano Bruno, e blasfemia grande quella dei cattolici il dire che il pane si transustanza in carne. Cristo un tristo che se faceva opere triste di sedur popoli poteva molto ben predire di essere crocifisso. Da Giordano Bruno. Benissimo, saluti, alla prossima puntata. Perché non m'ami, donna lombarda, perché non m'ami, perché ho mari, perché ho mari. Se c'hai marito farlo morire, se c'hai marito farlo morire, ti insegnerò laggiù nell'orto del Signor Padre, laggiù nell'orto del Signor Padre, che c'è un serpente, che c'è un serpente. Piglia la testa di quel serpente, piglia la testa di quel serpente, le sala ben, le sala ben. Quando l'avrai bella pestata, quando l'avrai bella pestata, tagliela a me, tagliela a me. Tornai marito, tutto assetato, chiede da te, chiede da te. Marito mio, di quale vuoi? Marito mio, di quale vuoi? Del bianco il me, del bianco il me. Donna lombarda, armelo bianco, donna lombarda, armelo bianco, che leva la sé, che leva la sé. Donna lombarda che ha questo vino, donna lombarda che ha questo vino, che l'entorbe, che l'entorbe. Saranno i troni dell'altra notte, saranno i troni dell'altra notte, che l'ha intorbe, che l'ha intorbe. lo devi mettere. Vieni su Monte Calvario.